Europa 24. Ancora un saluto da Gigi Donelli. Quando sono le 14, dunque, in primo piano la decisione che deve essere presa e che è stata già rimandata più volte da parte dei 28 stati dell'Unione Europea circa la distribuzione di 40.000 immigrati clandestini, profughi giunti in Italia e in Grecia soprattutto nel corso degli ultimi 8 mesi. Ecco, tutto questo è il grande capitolo oggi pomeriggio delle decisioni che devono essere assunte da Bruxelles. Allora, su questo specifico sentiamo il servizio del nostro Beda Romano. I ministri degli interni europei si riuniranno oggi qui a Bruxelles per accordarsi su un piano di ricollocazione di 40.000 rifugiati arrivati in Italia e in Grecia. Il negoziato è stato difficile perché non tutti i paesi dell'Unione volevano in origine accogliere profughi non arrivati sul loro territorio. La proposta di ridistribuzione fatta dalla Commissione europea alla fine di maggio è stata quindi discussa. Il compromesso dovrebbe prevedere che tutti i paesi promettano di accogliere un certo numero di profughi. Non vi sarebbe quindi imposizione dall'alto, ma una scelta volontaria e al tempo stesso vincolante da parte di tutti gli Stati membri. La presidenza lussemburghese dell'Unione spera che si trovi un accordo oggi e che vada in questo senso. Si tratterebbe per molti versi di una prima revisione del principio di Dublino, la norma secondo la quale il paese responsabile dell'accoglienza del profugo è in Europa quello di primo sbarco. Entro la fine dell'anno la stessa Commissione europea dovrebbe presentare un progetto di riforma più ampio del principio di Dublino. La ricollocazione di 40.000 profughi in discussione oggi è infatti un piano su appena 2 anni. Beda Romano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bruxelles. Sulle divisioni tra nord e sud oggi vi segnalo anche una lunga intervista dell'ex presidente della Commissione UE, ex premier italiano Romano Prodi a Le Monde. Molti temi affrontati, ovviamente la soluzione, diciamo, della questione Grecia. Dice: abbiamo evitato il peggio ma abbiamo creato il male. Dunque molto severo Prodi sulle decisioni assunte in queste giornate. Dice: non c'è alcun dubbio sull'esistenza di una frattura tra nord e sud dell'Europa, eppure il nord dell'Europa, prosegue Prodi, la Germania, diciamolo chiaramente, ha saputo approfittare dell'euro. Mi attendevo da parte sua una più grande attenzione all'interesse comune, visto che i suoi interessi nazionali sono stati soddisfatti. Così, questo, anzi, anche questo, Romano Prodi oggi in un'intervista al quotidiano Le Monde. E ora invece la Grecia. Dunque, la Grecia da questa mattina, come sapete, ha riaperto le banche, 23 giorni di chiusura, non ha riaperto la borsa, quindi gli scambi sono ancora fermi. Soprattutto circa 4 ore fa la Commissione europea ha versato quei 7 e oltre miliardi che sostanzialmente riusciranno come sono arrivati, perché servono appunto a rispettare le tranche di pagamento, il famoso prestito Ponte. Allora sentiamo nel servizio di Sergio Nava. Si apre l'ora dei negoziati e saranno duri. La cancelliera tedesca Angela Merkel difende la sua linea sulla Grecia. Nella consueta intervista di mezza estate con la TV pubblica ARD, la Merkel torna a ribadire che un taglio netto del debito ellenico è fuori discussione, tuttavia ammette un alleggerimento del debito mediante tassi di interesse più bassi e una dilazione nel tempo dei pagamenti possono rappresentare condizioni su cui trattare. La Merkel smentisce seccamente dissidi con l'ala più dura del governo incarnata dal ministro delle finanze Schäuble. Nessuno mi ha chiesto di essere licenziato, chiarisce. Il tutto mentre la Grecia si prepara ad una nuova settimana di passione. Le banche riapriranno, è vero, ma nella sostanza i limiti su prelievi e trasferimenti di denaro resteranno e soprattutto la borsa di Atene resterà chiusa, rallentando la graduale ripresa di un'economia semi-paralizzata da 3 settimane di stop. Mentre i greci dovranno fare i conti con gli aumenti delle tasse, figli dell'ultimo l'ultimo pacchetto di austerità, Alexis Tsipras proverà a far passare mercoledì la seconda tranche di riforme imposta dall'Europa. Con un occhio al calendario elettorale, i sondaggi favorevoli potrebbero convincerlo a puntare su nuove elezioni anticipate in autunno per scommettere sulla maggioranza assoluta. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Insomma, i 7,16 miliardi di euro sono arrivati, serviranno per coprire le esigenze finanziarie, pensate, solo fino a metà agosto. Nel frattempo le autorità greche, rappresentate dalla Troica, dovranno concordare il nuovo memorandum che contiene le riforme da fare nei prossimi 3 anni. Una volta messo a punto il documento, sarà sottoposto di nuovo all'Eurogruppo e poi ancora una volta ai parlamenti nazionali, che devono esprimersi su tutte le questioni legate al bilancio e quindi anche su decisioni che coinvolgono il fondo salva stati e SM. Un percorso lungo, come capite, come sappiamo, che oggi ha compiuto comunque un primo passo nella direzione decisa appunto nell'ultimo vertice straordinario. Con questo è tutto, è tempo di lasciare la linea a Carlo Genta, naturalmente a tutti i convocati. Un saluto. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.